Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Accendiamo i motori, cari amici. Si parte o si riparte? Ma come fa la differenza? Partite così oppure partite cos'ha? In linea con noi abbiamo un ospite che di motori se ne intende, pronto per la sua diagnosi. Do il benvenuto a Jarno Trull, pilota di Formula 1 e produttore di vino, aggiungo. Jarno, un abbraccio grande, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, il primo, noi abbiamo bisogno di te, perché stiamo accendendo i motori per una partenza alla grande. Abbiamo sentito un motore un po' affaticato, il tuo orecchio clinico, che cosa ci dice? Ci dice che potrebbe essere una mancanza di benzina, gli iniettori sporchi o il carburatore sporco, addirittura le candele. Addirittura le candele, che per me sono veramente un grande tabù. Sentiamo invece, se Filippo Aureggi ce lo fa risentire, il motore rombante, pieno di energia, il motore che ciascuno di noi vorrebbe avere per ripartire alla grande. Jarno, stai pronto che lo risentiamo perché tira un po' sul cuore. Vedi come va via bene. Jarno, questo è un motore perfetto? È un motore perfetto, si sente, gira pulito, quindi le candele sono in ordine, la carburazione è in ordine, gli iniettori sono a posto, la benzina è pulita e quindi il motore è perfetto. Però, per mantenerlo tale, cosa bisogna fare? Bisogna continuamente regolare la vettura, controllarla, fare in modo che vengono controllate sempre le candele, l'impianto idraulico, elettrico, insomma, ci vuole una revisione ogni tanto. Una revisione ogni tanto. Io ti ringrazio molto, Jarno, perché la tua diagnosi sembra calzi a pennello anche per noi, non solo per i motori. Jarno, un abbraccio, grazie per essere stato con noi, a presto. Buona ripartenza anche per te. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. Qua in studio con me ho il piacere di avere la dottoressa Lidia Rotavender. Voi la conoscete, presidente di ALT, l'associazione lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari, e responsabile del centro trombosi dell'Istituto Clinico Humanitas. Buongiorno e bentornata. Buongiorno a voi, grazie. Pronta per una ripartenza. Jarno ci ha parlato di candele, carburatore, ma non solo i motori ripartono, ripartiamo anche noi. Beh, è un paragone che calza perfettamente, ripartiamo anche noi, e la parte centrale della nostra autovettura è certamente il cuore, è quella che ci porta in giro, è quella che ci permette di andare, di respirare, di camminare, addirittura di pensare, perché senza cuore neanche il cervello funziona e viceversa. Lui ha parlato di pezzi del motore. Sì. Allora è divertente fare questo paragone. La struttura della macchina, quindi la macchina può essere vecchia, può essere nuova, può essere una macchina solida o meno solida, la struttura è il cuore. Il cuore come è fatto? Abbiamo un cuore in dotazione, che è quello che, di cui ci ha provvisto madre natura, può essere più forte, meno forte, più resistente, meno resistente. Poi c'è il modo in cui lo trattiamo. La macchina la possiamo trattare bene, trattare male. Il cuore lo possiamo trattare correttamente, allenarlo gradualmente, oppure sforzarlo in maniera esagerata, e quindi la struttura ne risente. E poi ci sono le valvole del cuore, che sono, chi lo sa, forse sono paragonabili alle candele. Chissà. Le candele sono, per quello che posso io sapere di automobili, poi le candele sono quelle che danno la scintilla, che poi permette al cuore di funzionare. Le valvole sono quelle che forse un po' più idraulicamente permettono, sì, al sangue di scorrere correttamente e di andare solo in una direzione e di non far tornare il sangue indietro, perché questo non andrebbe bene. E la benzina è il nostro sangue, che deve essere ossigenato adeguatamente, che deve essere ricco, deve essere pieno di globuli rossi nel modo giusto, e quindi deve nutrire il cuore e la macchina. Allora, sentiamo i motori, voi chiamate il nostro numero verde, mi raccomando, riprendete a chiamare all'800 24 00 24 per dirci sulla vostra carrozzeria che motore è stato montato. Thank you. 800 24 0024. Dottoressa Rotavendere, il nostro motore è il cuore, e la potenza del motore si misura con i cavalli, quella del nostro cuore con i battiti, frequenza, pressione. È giusto, il nostro cuore ha una sua capacità di contrazione, l'abbiamo detto tante volte, ormai dovrebbero saperlo tutti, speriamo che l'abbiano imparato. Il cuore è un muscolo, è cavo al suo interno ed è esattamente una pompa. Fa parte di un sistema idraulico chiuso che parte con il cuore, butta il sangue nelle arterie che diventano sempre più piccole man mano si allontana dal cuore, distribuisce il sangue attraverso i capillari che sono ovunque, un po' come le venature delle foglie, sì, a partire dal tronco. I capillari venosi raccolgono il sangue sporco, vene sempre più grandi man mano si ritorna al cuore facendo il percorso inverso, e questo sistema deve funzionare bene, con una certa efficienza, con una certa rapidità e con una certa portata. Quindi la pressione è la forza con cui il cuore spinge il sangue dentro le arterie, la portata è la quantità di sangue che circola, e lo ricordiamo che sono circa 5 litri in una persona adulta, diciamo di medio peso, la frequenza dei battiti si adegua alle necessità, come quando noi spingiamo sull'acceleratore, accelera la frequenza. Un po' di batticuore è tipico di ogni partenza, si è sempre un po' agitati, no? E la ripresa è una partenza a tutti gli effetti. Io direi meglio giocare un po' di anticipo, c'è un po' di stress, c'è lo stress buono e c'è lo stress invece da tenere un po' sotto controllo, da conoscere, da cavalcare, no? Beh, come sempre, lo stress ormai è una parola usata, abusata, molto conosciuta. Ricordo che stress vuol dire stirare in inglese, e lo stress è quello che ci permette la mattina di scendere dal letto e di affrontare la nostra vita quotidiana. Quindi un po' di stress buono e momentaneo può essere positivo, lo stress prolungato nel tempo e soprattutto a livelli alti invece può essere molto negativo, perché con lo stress aumenta la frequenza del nostro cuore, aumenta la pressione. Niente di tutto questo fa male se per un periodo breve, fa male quando è protratto a lungo nel tempo. Ci sono alcuni modi che di valutarlo, sì, vero? Alcune scale che hanno cercato, ognuno fa le sue interpretazioni, però c'è questa scala di Hanson che a me piace molto, è una cosa americana, la scala di Hanson permette di attribuire un valore in termini di quantità, un punteggio, sì, ad ogni situazione critica della vita, per esempio la perdita di una persona cara, un divorzio, una posizione in ufficio che sia inadeguata a quella che riteniamo la nostra capacità, un capo che ci fa del mobbing, dei figli che ci danno preoccupazione, e così via andando. Ogni età ha le sue ragioni di stress. E poi c'è la personalità, che può essere molto semplicisticamente classificata personalità di tipo A o di tipo B. La personalità di tipo A è quella delle persone reattive, più aggressive, più vivaci, quelle che si esprimono, che reagiscono alle situazioni. La personalità di B è quella delle persone che noi riteniamo quelle specie di muri di gomma alle quali puoi fare qualunque cosa e non reagiscono. Quindi mettiamo insieme la personalità di cui siamo dotati e gli stimoli che riceviamo dall'ambiente, c'è sempre questa coniugazione fra due elementi che è molto importante. Quindi A o B? A o B. Con che tipo di personalità vi riconoscete? 800 24 00 24, ma a proposito di stress, noi dottoressa abbiamo bisogno che anche il cervello riparta e si riabitui ai nuovi ritmi e sviluppi una sorta di protezione nei confronti dello stress negativo, indipendentemente dalla personalità A o B. Sì, è vero, il primo passo è prenderne coscienza e sapere che ci sono alcune situazioni che possono far danno se protratte nel tempo, e quindi rendersene conto è già il primo passo per capire e per correggere. E poi dobbiamo pensare che ci sono alcune situazioni nelle quali lo stress è più forte. Per esempio adesso c'è la ripresa del lavoro per molti fortunati che sono stati in vacanza fino ad oggi, la ripresa della scuola per tutti i ragazzini, e in un ambiente che non è così favorevole, perché l'inquinamento ambientale, per esempio, sappiamo avere un impatto sulla qualità del sangue, sulla capacità del sangue di distribuire ossigeno, e quindi in una situazione di stress nella quale il bambino o il giovane si trova, o l'adulto anche, si trova a misurarsi con una situazione molto che richiede sforzo, intensità e concentrazione, avendo dimenticato nell'arco dei 2 mesi precedenti probabilmente tutte le password e tutto quello che aveva imparato nei mesi precedenti, mi riferisco soprattutto ai ragazzi, è una situazione di stress importante, bisogna tenerne conto. Abbiamo Alessandro che ci chiama da Livorno, benvenuto all'800 0024 0024, e subito dopo Fabrizio ci chiama da Latina. Vorrei sentire anche le mie amiche, chiamatemi 800 24 0024, come state ripartendo e come, e mi rivolgo alle amiche che ci stanno ascoltando, state organizzando la ripartenza delle persone che avete accanto. Tocca spesso a noi. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a voi. Dunque, volevo fare una domanda. Io ho 50 anni, faccio un lavoro abbastanza sedentario, faccio il manager di azienda, però sono abbastanza, insomma, faccio attività sportiva mediamente 2-3 volte alla settimana. Volevo sapere l'importanza, diciamo, di mantenere le frequenze cardiache, diciamo, sotto controllo, ovvero cioè l'importanza di avere per esempio un cardiofrequenzimetro, e quanto è importante portare magari al massimo le frequenze per abituare il cuore a a pulsare di più, insomma, non lo so, ecco, certo, insomma, farlo funzionare bene. Grazie Alessandro, sentiamo, ci siamo scritti la domanda, sentiamo anche Fabrizio che cosa ci chiede da Latina. Buongiorno Fabrizio, benvenuto. Buongiorno, senta, no, io diciamo volevo dire che, cioè, io ho una personalità di tipo A. No. Si è fatto la diagnosi. Si è fatto la diagnosi, proprio sono, un apuro. Sono sempre, diciamo così, abbastanza iperteso, quindi... No, volevo sapere, la domanda è questa qua, cioè, basta fare solamente un controllo della pressione ogni tanto o per prevenire qualche infarto, qualche cosa così? Va bene, grazie Fabrizio. Lui ha detto sono iperteso, nel senso iperteso, sì. teso molto, che non è avere la pressione alta, che è comunque un fattore mentre di rischio è un per termine, il nostro cuore. È un allora, termine che di solito si usa per questo. Alessandro e Fabrizio, parto dal secondo perché me lo perché ricordo, perché la personalità le piace. No, sì, mi piace molto. No, allora, per quello che riguarda il secondo ascoltatore che ha chiamato, è incredibile come immediatamente, pur essendosi fatta una diagnosi, avendo detto qual è la sua personalità, la prima cosa che lui chiede è quali esami devo fare. Allora, prima di chiedere quali esami deve fare, non conoscendolo io, non sapendo quanti anni ha, non so qual è la sua storia, eccetera, direi che la cosa più importante è sapere che se fa dell'attività fisica riesce a scaricare tutti quegli ormoni dello stress che noi produciamo normalmente e che riescono quindi a riportare il grado di stress a un livello probabilmente tollerabile. Quindi il consiglio che gli do, siccome non può cambiare la sua personalità, non può cambiare la sua familiarità, è, oltre a tenere sotto controllo ogni anno, ogni 2 anni, dipende dall'età, il colesterolo, la glicemia, naturalmente la pressione anche più frequentemente, cercare di impostare proprio uno stile di vita che sia adatto a scaricare queste tensioni che lui stesso ammette di accumulare e che sono piuttosto intense. Attraverso quell'attività sportiva su cui verteva la domanda di Alessandro, esatto. È utile avere un cardiofrequenzimetro, sì. Allenare il cuore a... Sì, sicuramente è utile avere un cardiofrequenzimetro, un po' come non avere nell'automobile non avere il contagiri o non avere il segnale che ci dice quanta benzina abbiamo. È molto importante averlo, è molto importante rispettare i termini, ma soprattutto in una persona come il primo ascoltatore Alessandro, che come si chiama? Alessandro, mi scusi, me lo sono l'età o il rientro? Il rientro. Allora, Alessandro, secondo me, ha già fatto una scelta buona, che è quella di fare sport abitualmente. Lui stesso ammette di fare una vita sedentaria, poi, se non sbaglio, ha detto che fa il manager, quindi forse ha qualche problemino magari, sì, da affrontare tutti i giorni, e quindi direi di insistere, visto che è ben orientato, di continuare ad essere ben orientato sul suo stile di vita e di usare il suo cardiofrequenzimetro così come è riportato banalmente nel foglietto illustrativo. Il triangolo no, non l'avevo considerato, d'accordo ci proverò, la geometria non è un reato. A noi invece triangoli ci piacciono molto. La dottoressa mi sta sgranando gli occhi, dice oddio, diventa una trasmissione hard. Sessuale. No. Almeno ci piace un triangolo, uno in particolare, su cui vogliamo lavorare oggi perché può essere un'immagine utile, credo, me lo auguro, per indirizzare la nostra ripresa. Un vertice sta nel cuore, uno nel cervello, l'altro ce lo svela. Il prossimo ospite che è in linea con noi, a cui do il benvenuto. Buongiorno a Susy Stefanini, insegnante di yoga e organizzatrice con Daniele Bellone di Yoga and Meditation Training. Buongiorno. Bentornata. Grazie. Allora, l'altro vertice lo mettiamo sul respiro. Lo mettiamo sul respiro, sì, assolutamente. Questi tre vertici sono veramente interconnessi, collegati. E il respiro è così straordinario che può influire su entrambi, sul cuore e sul cervello. E in che modo? Intanto il nostro respiro, come già abbiamo avuto modo di sperimentare altre volte, dovrebbe essere un respiro diaframmatico, quindi utilizzando bene il movimento dell'addome, dello stomaco, con un ritmo regolare e fluido. E questo piano piano ci potrebbe portare a modificare il ritmo del respiro, se vogliamo andare verso magari uno stato di rilassamento ma anche di attenzione, possiamo cercare di allungare la durata del nostro respiro, possiamo cercare di portare l'espirazione ad essere un po' più lunga dell'inspirazione. E cosa succede? Succede che il cuore viene massaggiato, perché quando il diaframma si muove è come proprio una pompa, massaggia il nostro cuore. Quando il cuore viene massaggiato si riequilibra, quindi diciamo che il battito del cuore durante l'espirazione diventa più lento, quindi c'è uno stato di calma attraverso un'azione proprio riequilibrante sul sistema nervoso e quindi naturalmente un'influenza sul cervello. Il cervello e il cuore ricevono più sangue, un sangue ossigenato, c'è più energia al cervello. È un cervello più lucido, è un cervello anche più tranquillo perché sa che è nel pieno controllo delle emozioni. E quindi ecco che entrando dal respiro riusciamo a mettere in comunicazione il cuore e il cervello e ad armonizzare. Quindi Susi, un bel respiro e si riparte. È un bel respiro, un respiro consapevole. Ed ecco che allora la parola consapevolezza ci porta a introdurre anche una componente nuova, se vogliamo, nel nostro respiro, che potremmo praticare, un respiro con un mantra, con un suono mentale che rimane collegato al nostro respiro, perché è proprio tradizionalmente il mantra del respiro, il suono del nostro respiro, ma dà un sostegno alla mente, quindi il cervello rimane più focalizzato e più tranquillo. Quindi, e questo mantra è il mantra Soham. Soham. Sì. Susi, quindi il consiglio che possiamo dare oggi per le persone che stanno riprendendo e stanno avvertendo come tutti, come fisiologico, un po' di fatica, ogni tanto soffermatevi e provate a respirare, a modificare anche l'intensità, la profondità del vostro respiro. Certo, perché il respiro ci mette in contatto con il nostro centro di quiete, che è sempre lì, non dipende dalle vacanze, dal lavoro, ma è sempre presente in noi, è proprio quello spazio tranquillo dove noi possiamo sempre rifugiarci in ogni momento ed il respiro ci indica la strada. Grazie a Susi Stefanini per essere stata con noi, a presto Susi, grazie, buona giornata. Allora, intanto che voi provate a fare dei bei respiri, io vi ricordo che di andare sempre a leggere i consigli del nostro Daily Lab. Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare, è l'amore che ti vuole. Dammi tre parole, diamocele allora. Io vi suggerisco cuore, cervello e respiro. Tre parole per una ripresa a tre, ma direi allarghiamoci, dottoressa, a 5 stelle. Allora, voi come state ripartendo? Qual è la parte di voi su cui puntate di più e quale vi serve, su quale vi serve lavorare per riprendere bene il passo? Abbiamo parlato di cuore, abbiamo parlato di respiro. Tante volte basta respirare profondamente per vedere le cose sotto un'altra luce. 800 24 00 24, voi sotto quale luce vedete la vostra ripresa? Chiamateci, la dottoressa Lidia Rotavendere è qui in studio con me. E a proposito di respiro, dottoressa, in vacanza sembrava così leggero, adesso tante volte si fa corto. Beh, si spezza. Beh, in vacanza poteva anche essere leggero perché forse ci trovavamo in un ambiente dal punto di vista ecologico meno inquinato. Qui, ritornando nelle città, come purtroppo succede a molte persone, perché non tutti hanno il privilegio di vivere in campagna, l'inquinamento certamente è un fattore di rischio. Il legame fra cuore, respiro e cervello è abbastanza straordinario. Per esempio il respiro, un bel respiro profondo, in qualche caso può servire anche a risolvere quelle tachicardie, cioè quell'accelerazione del ritmo del cuore che sentiamo, che vengono proprio dall'ansia. Ed è incredibile come espandendo bene il torace e espandendo, quindi respirando bene col diaframma, come diceva la signora Stefanini prima, effettivamente riusciamo anche a ridare al cuore un rallentamento di questo ritmo. respiriamo. Il respiro dipende da tante cose e dipende anche dalle vie aeree. Per esempio abbiamo dei bambini che soffrono di adenoidi o di tonsilliti ricorrenti, e sono questi bambini che fra un mese, quando incomincerà la stagione fredda e avranno degli episodi influenzali, cominceranno ad essere catarrali, quindi cominceranno ad avere un accumulo di muco. E si sa che uno dei sintomi che fa capire che le adenoidi stanno diventando troppo ipertrofiche, le adenoidi sono un tessuto linfatico importantissimo perché stanno sull'entrata dell'aria dall'esterno verso l'interno, verso i bronchi e i polmoni, ma sono un organo linfatico, producono anticorpi, però sono quelle che recepiscono per prime l'insulto del microbo, quindi si infiammano, tutto ciò che si infiamma si ingrandisce, ingrandendo si occupano spazio e quindi fanno respirare male il bambino, e ce ne accorgiamo che il bambino ha difficoltà, respira sempre con la bocca aperta e gli vengono le occhiaie, ed è dimostrato che i bambini che soffrono di adenoidi, di adenoiditi ricorrenti, sono bambini che hanno difficoltà di concentrazione e fanno più fatica. Perché riprendono anche i bambini, perché tra poco ritornano a scuola, per cui consigli per la ripresa anche dei bambini all'800 24 00 24. Cuore, cervello, respiro, ma dottoressa, per ripartire ci vogliono anche buone gambe. Vediamo se questo bronzo si può avvicinare. L'assalto di Valentina Vezzali, va a segno, va a segno. Siamo 12-12 e quindi c'è il pareggio in 9 secondi. Ha messo a segno 3 stoccate Valentina Vezzali a un secondo dal termine, 12-12, e dunque tutto ripasso in corsa. E insomma, non bisogna dare giudizi, finisce il terza manche, quindi ci sarà adesso l'extra time. C'è la stoccata decisiva, chi fa questa vince, possiamo semplificare. Valentina Vezzali ha recuperato 3 stoccate in 9 secondi e prova ancora ad attaccare. Valentina Vezzali per il bronzo, va a segno Valentina Vezzali, medaglia di bronzo per Valentina Vezzali, e il podio di questo fioretto femminile sarà tutto italiano, perché la finale è in linea con noi. Ce l'abbiamo la grande Valentina, che emozione. Valentina, ciao. Che emozione, buongiorno a tutti. Ah, mi hai fatto veramente emozionare tanto, eravamo tutti lì attaccati. Che grande lezione hai dato. Per vincere ci vuole preparazione, tenacia, e Valentina, aggiungi tu. Ma per cercare di ottenere sempre nuovi traguardi bisogna essere consapevoli di non mollare mai, anche nei momenti più disperati. E devo dire che, parlando poi con il mio maestro di scherma che era in tribuna, mi ha detto che a 12 secondi dalla fine si era alzato e stavo quasi andando via. Però sono contenta perché i miei genitori nella mia vita mi hanno insegnato che non si deve mollare mai, e l'orgoglio di essere italiana mi ha permesso di compiere un miracolo. È vero, non si deve mollare mai. Segniamoci, lo metto anche sul nostro Facebook, è firmato Valentina. Senti Valentina, nella scherma conta la concentrazione, la determinazione, sono doti che servono anche quando bisogna ricominciare, ma aiuta anche a vincere quella sensazione di timore, di insicurezza che caratterizzano ogni nostra nuova avventura. Noi oggi stiamo giocando con i nostri ascoltatori su tre parole: cuore, cervello e respiro. Tu di fiato ne hai tanto, Come lo mantieni? Come lo alleni? Ma assolutamente la preparazione fisica è una cosa fondamentale, quindi tanto lavoro aerobico all'inizio della preparazione. Poi mi piace tantissimo allenarmi all'aperto, dove mi alleno, dove c'è il campo di atletica e mi alleno, c'è tantissimo verde, mi dà proprio la sensazione, una bellissima sensazione, ma anche d'inverno con il brutto tempo mi piace allenarmi all'aperto, ripeto. E poi sicuramente è importante allenare la mente, perché con gli esercizi specifici l'alleni e ti alleni alla concentrazione, che poi allenare la mente nello sport ti può aiutare anche in tutti gli altri settori della vita. Assolutamente, per questo la dottoressa suggeriva l'attività fisica per scaricare un po' le tensioni, ma tante persone che fanno attività fisica ci raccontano che proprio durante un allenamento hanno avuto quell'intuizione per affrontare una cosa, risolvere un problema. È vero, dottoressa? Perché probabilmente si schiarisce la mente. Intanto approfitto, e io che non guardo mai la televisione devo dire che me le sono viste tutte. tutte le gare delle Olimpiadi della scherma, perché erano veramente entusiasmanti, quindi complimenti anche da parte mia. Complimenti di cuore, molto di cuore. Il cuore della dottoressa Lidia Rotavender, che da anni insegna ai suoi pazienti, agli italiani, agli ascoltatori di Essere Benessere, ad occuparsi della salute del loro cuore. Valentina, porta buono, perché Essere Benessere porta buono e vale di più. Mi scusi, l'ho interrotta. Quindi no, stavamo dicendo che quello che è importante è riuscire a settarsi e quindi cercare di mettere insieme respiro, cuore, gambe, tenacia, personalità, educazione, perché è di questo cocktail credo che sia fatto il successo di questa atleta straordinaria. Quindi è molto importante sempre sapere, sempre, ecco, alla base c'è questo, conoscere, sapere. È vero che nei momenti in cui si scaricano le tensioni, quelle diciamo in sovrappiù, quelle di superficie, che sono quelle dei nervi, quelle delle arrabbiature, probabilmente si fa limpidezza anche nel cervello e forse le buone idee vengono. Si dice che le buone idee vengono di solito durante la doccia, secondo me vengono molto durante la corsa. O magari la doccia dopo la corsa. Sì. 800 24 00 24, fatemi sentire la vostra voce, soprattutto il motore con cui state riprendendo. Ma Valentina, quanto al cuore, raccontaci un po' le tue emozioni a distanza di poco più di un mese, qualche giorno. Sì, ma devo dire che le emozioni sono ancora molto forti. Ricordo dopo aver portato la bandiera ho fatto il giro di campo e poi sono immediatamente uscito, perché la mattina avrei dovuto disputare la mia gara individuale e ho sentito al telefono mio figlio che era a Piccadilly Circus e finalmente Pietro ha capito quello che significava portare la bandiera alle Olimpiadi e mio figlio mi disse: mamma, quando sei entrata c'era un maxi schermo e c'è stato un grandissimo subbuglio. Beh, un'emozione veramente unica, che al di là delle medaglie di bronzo e d'oro conquistate con la squadra, porterò sempre nel mio cuore. A proposito di cuore, grazie a Valentina per essere stata con noi. Valentina, a presto, complimenti. Grazie a voi, a presto, un abbraccio. Grazie. Roberto da Vicenza e Renato da Roma ci hanno chiamato, grazie. Aspetto anche le altre vostre telefonate con le vostre riprese all'800 24 00 24, perché vogliamo ripartire iniziando ad occuparci proprio del nostro benessere. Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei e alla professoressa. Sono un po' emozionato perché è la prima volta che riesco. Fantastico, a mettermi in contatto. Così, così il cuore può. Benissimo. Dai Roberto, forza. Ecco. No, niente. La mia domanda era, visto che alleno, diciamo, preparo un po' dei giovani a livello sportivo, sì. Vedo che hanno molta difficoltà a mantenere una concentrazione che è fondamentale, diciamo, nell'attività sportiva, soprattutto di squadra. Cosa posso fare per aiutare questi giovani per migliorare la loro concentrazione? Sì, esatto, perché ritengo che sia fondamentale. Anche perché poi se uno impara a concentrarsi facendo attività sportiva, poi si concentra anche a scuola, nel lavoro, nell'ascoltare l'altro. Prende fiducia in se stesso. Certo. Questo è una piccola sfida per me, perché la mia specializzazione, diciamo, non so se mi permette di rispondere da un punto di vista tecnico. Posso rispondere da un punto di vista di esperienza come madre, adesso anche, diciamolo, come nonna. Credo che in una persona che si prende la responsabilità di allenare una squadra, soprattutto se di giovani e soprattutto se non a livello competitivo altissimo, ma così, diciamo, amatoriale, quello che conta è l'esempio e il fascino. E il fascino credo che sia quello che suscita nei ragazzi, soprattutto, accende la passione. E la costanza è quella che si deve esercitare continuamente. Penso che lui sia, dal modo in cui ha raccontato, credo che lui abbia tutte le caratteristiche per trascinare la sua squadra. Una partenza 5 stelle, una partenza alla grande, una partenza in pieno benessere, no? Siamo già fortunati a ripartire, a ritrovarci ad affrontare gli impegni quotidiani, il lavoro, tutte quelle seccature che riempiono un po' la nostra quotidianità. Ecco, concentriamoci su questo. Pensiamo già che è una grande fortuna. 800 24 00 24, siete d'accordo con me? Renato da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Eccomi. Niente, il problema mio è questo, cioè che ritornato dalle vacanze non riesco a riprendermi. Praticamente niente, cioè stanchezza, a parte che in vacanza sono diminuito di 5 kg e già sono magro. Sì. E niente, non riesce a riprendere un po' il passo. In questa settimana, Renato, molti si staranno lamentando, sarà un ripetersi di luoghi comuni del tipo non ce la posso fare, sono già stressato, mi sembra di non essere neppure andato in vacanza, mi sento più stanco di prima. Dottoressa, Renato, abbiamo preso i ritmi troppo lunghi, adesso è difficile ritornare in sella? Allora, può darsi che abbiamo fatto delle vacanze assolutamente sciamannate, per cui ci siamo fatti delle nottate fino alle 8 del mattino, come succede spesso, e questo potrebbe averci affaticato. Renato però ha detto una cosa, che ha perso peso. Allora, in questo caso, secondo me, può essere che se non ha cambiato la propria alimentazione, se non l'ha fatto volontariamente, il fatto di perdere 5 kg di peso in pochi mesi, ecco, direi che richiede un minimo di approfondimento. Può darsi che ci sia una forma di anemia, una forma di gastrite, se lui è una persona che è molto stressata. Quindi su Renato mi sentirei di raccomandargli una valutazione con il suo medico curante, è importante. Per gli altri invece posso dire che certo rientrare in una routine che è faticosa, che è molto, che richiede molto, certamente è difficile, un po' come un atleta che smette di allenarsi per 2 mesi e poi improvvisamente pretende di fare esattamente quello che faceva prima. L'allenamento è importante anche per il cuore, il respiro, il cervello. Voi medici consigliate, riprendete gradualmente eccetera. Però ecco, io mi penso sempre a questo, ce l'ho sempre fatta, no? Ecco, e quindi ce la facciamo anche quest'anno. Sì, però abbiamo anche delle batterie che ogni tanto vanno in riserva, hanno bisogno di essere ricaricate, quindi durante le vacanze quello che facciamo è di ricaricare le batterie dell'umore, del cervello, del corpo, del divertimento, della parte ludica della nostra vita. Poi però bisogna anche riconquistare le connessioni, certo, corrette per poter riottenere quello che vogliamo. Abbiamo una sfida da lanciare ai nostri ascoltatori. Vorrei in ogni trasmissione, ogni diretta, raccogliere una frase che può essere d'aiuto a chi ci segue su Facebook o sulla pagina di Essere Benessere. Allora, deve essere un po' la massima, un pensiero positivo che abbiamo tirato fuori dalla puntata di oggi. 800 24 00 24, lasciateci il vostro, chiamateci, dateci il vostro incoraggiamento, il vostro pensiero positivo. Naturalmente io sceglierò tra quelli che mi sembrano più ricaricanti, li metteremo naturalmente sulla nostra pagina Facebook a commento degli altri amici di Facebook, lo lanceremo magari su un tweet e naturalmente io sceglierò dalla libreria di Essere Benessere un libro. Quindi 800 24 00 24, provate a raccontarci, a dirci, a esprimere una frase che aiuti sintetizzare un po' il messaggio della puntata di oggi. Intanto parlavamo di peso, dottoressa Rotavender, quando dimagriamo senza volerlo può essere un campanello d'allarme, ma molte persone saranno stressate anche l'idea dei chili in più che hanno accumulato in ferie. Le statistiche dicono circa 2 chiletti in vacanza. Sì, lo sentiamo molto in questi giorni e devo dire che quello che è sempre più che attira l'attenzione è il problema dei bambini. I nostri bambini, lo sappiamo, è stato detto in tanti modi, sono fra i bambini, abbiamo il 30% di bambini che sono almeno sovrappeso o addirittura obesi. Allora volevo citare un piccolo articolo che è uscito recentissimo in questi giorni, ma molto molto importante, che ha correlato proprio, addirittura hanno fatto la risonanza magnetica cerebrale, cosa che non va fatta, lo devo dire molto chiaramente, questo era uno studio, e hanno visto che i bambini che hanno la glicemia che incomincia un può muoversi anche senza essere diabetici, che sono obesi e che si muovono troppo poco, effettivamente a livello cerebrale hanno delle alterazioni che indicano che c'è una sofferenza. La stessa cosa la vorrei dire anche perché forse anche d'estate si abusa di abitudini che magari non voglio entrare nel merito, ma insomma non sono proprio le canne. Le canne hanno questa il termine canne è quasi amichevole, è quasi friendly, non è vero. Ed è stato pubblicato proprio nei giorni scorsi uno studio molto importante che ha misurato il quoziente intellettivo di ragazzi che hanno cominciato a fare uso di canne almeno 4 volte alla settimana per 20 anni. Sono andati a misurare la perdita di quoziente intellettivo ed è stato aumentata del 10%. Io credo che questi siano messaggi fondamentali che vanno trasmessi. Assolutamente. Quindi, perché dipendono proprio anche dal senso di responsabilità di ognuno. Quindi importante il peso, importante la qualità della vita e non sottovalutare il pericolo rappresentato dall'uso continuativo, soprattutto, posso parlare solo di quello, di sostanze stupefacenti che vengono sottovalutate in quanto a impatto. Assolutamente. Intanto lei pensa al nostro messaggio positivo, che magari mettiamo anche il suo, dottoressa? Sì, va bene, provo, intanto, mi metto in competizione. Pensatelo anche voi, sfidate la dottoressa Rotavendere all'800 24 00 24. In linea con noi abbiamo un altro amico di Essere Benessere a cui diamo il benvenuto, un amico che ci aiuta a riprendere il passo, il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, mi siete mancati. Anche lei ci è mancato, ma noi ci ritroveremo prestissimo. Vabbè, assolutamente, anche perché il messaggio positivo più importante è ascoltare Essere Benessere, dove si trovano le soluzioni per ripartire a piena velocità. Fantastico, Filippo Ongaro, è stato veramente subito. Adesso la dottoressa Rotavendere qua che scrive, vediamo se scrivono e ci chiamano anche i nostri ascoltatori per mettersi in competizione col dottor Ongaro. Io dico sempre che Essere Benessere fa bene, anzi porta bene, ma noi riusciremo, dottor Ongaro, a accompagnare i nostri ascoltatori anche in una rimessa in forma molto piacevole. Certo, abbiamo sempre bisogno, Nicoletta, di informazione da parte dei nostri ascoltatori, quindi scrivete, lasciate dei messaggi, diteci quanto siete alti, quanto pesate, come mangiate, quanto sport fate e noi faremo tutto il possibile per rimettervi in forma in un modo piacevole e divertente. Anzi, vi diamo già appuntamento per il prossimo giovedì. Esatto, il prossimo giovedì ricominceremo un appuntamento costante dove dedicheremo la nostra attenzione proprio a questo aspetto, cioè ad aiutarvi a ritrovare la forma utilizzando l'alimentazione, lo sport e anche la nostra testa. Abbiamo appena sentito quanto conta il cervello nel mantenerci in salute e quanto anche sia fragile quando noi poi adottiamo delle abitudini che non sono sane. Arriva già un messaggio: il cuore, il simbolo dell'amore, ama il tuo cuore. Questa potrebbe essere bella, una romantica frase romantica, però consenso che possiamo mettere sulla nostra pagina Facebook. Abbiamo ancora un altro paio di minuti, aspettiamo le vostre. 800 24 00 24. Intanto al cuore, il simbolo dell'amore, a molto cuore, la segnaliamo, la metteremo e sicuramente daremo al mittente, faremo arrivare un libro della libreria di Essere Benessere. Dottor Ongaro, noi ci sentiamo giovedì, quindi ai nostri ascoltatori portate un po' di voglia di cambiare, un po' di informazione per noi e un po' di buona volontà. Ecco, tutto questo è l'occorrente per stare bene. Grazie dottor Ongaro, noi ci sentiamo. Grazie a voi, a giovedì. A giovedì. Dottoressa, abbiamo ancora, che bello, abbiamo ancora 2 minuti per stare insieme con Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica e Anita Panizza in redazione. Così li saluto con calma. Ringraziamo anche le ragazze del centralino, importantissimo, un ruolo strategico. Dottoressa Rotavendere, cuore, cervello e respiro, noi ripartiamo puntando, abbiamo detto, ci piace il triangolo. Sì, ecco. Ci piace, ma deve essere condito con la buona volontà e deve essere condito con la conoscenza. Non dobbiamo accontentarci di informazioni superficiali, dobbiamo cercare le informazioni nelle fonti autorevoli, quelle che non riempiono i siti di parole, ma che sono molto concisi e che sono sostenuti da un'autorevolezza di base. E secondo me soprattutto dobbiamo farli nostri. E tanta informazione. Una volta un giornalista al quale avevo chiesto di farmi da testimonial dicendo che il controllo del peso, niente fumo, l'attività fisica quotidiana eccetera erano importanti per prevenire le malattie cardiovascolari, mi rispose: io non lo faccio. E io rimasi allibita. Non lo faccio perché? Non lo faccio perché, ha detto, l'informazione che c'è è talmente tanta che chi non vuole ascoltare s'arrangi. Che è un modo molto cinico di affrontare il tema, però è così, l'informazione c'è. E credo che la cosa più importante sia che ognuno la faccia propria e poi si prenda la responsabilità di decidere in funzione. La mia frase, posso dire la mia frase? Certo. Poi vinco anche il libro? Cedo il libro. Sì. No, la mia frase potrebbe essere questa: che se abbiamo un grande privilegio, che è quello di avere un cuore sano, un cervello sano e una struttura sana, una bella automobile sana, non la dobbiamo sprecare, perché sarebbe veramente un insulto. Grazie alla dottoressa Rottavender, grazie a voi. Scopriamoci partendo dal cuore, un altro messaggio che è arrivato, un'altra frase che ci guida. Intanto noi ritorniamo domani, vi aspetto, anche seguiteci naturalmente su Facebook e su Twitter. Buonissima giornata e buona ripresa da Nicoletta.